in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Come potete immaginare, la maggior parte dei titoli sono dedicati alla crisi di governo e in quasi tutti i titoli c'è il nome di Gentiloni, che pare essere il più probabile candidato a subentrare a Matteo Renzi come primo ministro. Oggi però dovrebbe essere la giornata decisiva, quindi giornali ovviamente, come nei giorni scorsi, si sprecano nei retroscena, nelle analisi che lasciano un po' il tempo che trovano, se vogliamo, perché vedremo appunto oggi che cosa succede. Il Sole 24 Ore sceglie di titolare sull'altra grande vicenda che si evolverà oggi e che è quella del Monte dei Paschi di Siena, questa la banca più antica del mondo, in profondissima crisi da molti anni. Ora la crisi è arrivata, tutti i nodi sono arrivati al pettine, si voleva un rinvio per trovare i miliardi necessari per la ricapitalizzazione. La BCE ha detto no. In questo, tra l'altro, c'è anche un giallo. Ieri il direttore del Sole 24 Ore, Roberto Napoletano, ha scritto il suo editoriale su questa fuga di notizie, perché non c'è ancora un documento ufficiale ed è stata aperta un'inchiesta. Da qui il titolo del Sole 24 Ore: MPS in salita al piano JP Morgan, perché era questa banca d'affari che aveva messo a punto, con l'aiuto di altri analisti e concordando il tutto con il nuovo amministratore delegato di Monte dei Paschi di Siena, Morelli. Quindi oggi si vedrà se si riesce veramente a proseguire su questa strada o se invece sarà necessaria la parziale nazionalizzazione, sostanzialmente il salvataggio da parte dello Stato di MPS. La BCE indaga sul giallo del rinvio. Due le analisi, una di Alessandro Graziani: l'urgenza di dare certezze al mercato, perché lunedì si riapriranno, appunto riaprirà la borsa e vedremo se come nella scorsa settimana, tranne un giorno, i titoli bancari sono stati molto penalizzati. E l'altra analisi di Isabella Bufacchi: l'ipotesi di intervento pubblico senza decreto. In prima pagina anche gli aggiornamenti sulla crisi: Mattarella, governo con pieni poteri, atteso oggi l'incarico, pronto Gentiloni. Anche qui molte le analisi. Tra l'altro vi ricordo che il Sole 24 Ore del lunedì, domani, sarà più fresco del solito, ci sarà appunto un'edizione speciale perché molti colleghi lavoreranno, come del resto faranno i colleghi di Radio 24, per aggiornarci poi domani sulla carta e naturalmente durante la giornata qui a Radio 24 e sul sito del Sole 24 Ore e di Radio 24 sull'evolversi della crisi di governo e sul caso MPS. In prima pagina anche un'altra questione importantissima che riguarda tutti, perché ha delle conseguenze pratiche su tutti noi, anche solo quando andiamo a fare benzina, e poi anche sugli equilibri geopolitici. Infatti ieri per la prima volta tutti i paesi membri dell'OPEC, che è un acronimo che sta per Oil, Petrol, insomma l'organizzazione, adesso che stiamo alle 7:21 mi viene male sciogliere l'acronimo, però è l'organizzazione dei paesi produttori di petrolio, che però non include per esempio la Russia. Ma ieri c'è stata una riunione di quello che appunto Sissi Bellomo definisce la Super OPEC. Tutti insieme si sono messi d'accordo, ed era 15 anni che non succedeva, su una stretta globale. Petrolio, nuovo accordo sui tagli, paesi non OPEC ridurranno la produzione di 558.000 barili al giorno, mentre quelli OPEC di oltre 1 milione. Tra l'altro c'era già stato un accordo una decina di giorni fa, tutto teso a far salire il prezzo del petrolio, che infatti è risalito abbondantemente sopra i $50 a barile, per la precisione appunto 55. Il Sole 24 Ore collega questa notizia a, se vogliamo, un'altra notizia che coinvolge tutto il mondo dell'energia, il settore dell'energia e delle aziende leader in questo settore, perché, come avrete sentito, piano piano, adesso che si sta formando questo governo Trump, la cosiddetta amministrazione Trump, che è il sinonimo di governo qui da noi, e il segretario di Stato USA, che è l'equivalente del nostro ministro della difesa, molto probabilmente sarà Rex Tillerson, che è l'attuale amministratore delegato della Exxon, che è uno dei colossi petroliferi americani ma anche mondiali. Corriere della Sera: stretta sull'incarico, pronto Gentiloni. Vi lascio immaginare anche qui tantissimi approfondimenti. In prima pagina anche la fuga di notizie sui Monti dei Paschi e l'inchiesta che la BCE ha aperto, e poi un accenno, poi trovate tutto all'interno, sulla bomba che ieri c'è stata a Istanbul. Il Corriere della Sera dà ancora 15 morti, in realtà sarebbero molti di più. La Repubblica: Mattarella, due punti, governo in tempi brevi. Oggi Gentiloni verso l'incarico, quindi vedete sono un po' tutti d'accordo su questa ipotesi. La fotonotizia è dedicata all'autobomba, che poi in realtà sono state due nel centro di Istanbul, anche qui almeno 15 morti, perché appunto il bilancio è salito e probabilmente salirà ancora. Un'altra notizia che la Repubblica ha in prima pagina è l'altra grande elezione che ci aspetta nel 2017, oltre a quelle per il cancellierato tedesco, quindi, e come sappiamo, Angela Merkel si è appena candidata per un quarto mandato. Le altre elezioni sono le presidenziali della Francia e da domani Repubblica pubblicherà un'inchiesta insieme a altri tre giornali europei in cinque puntate, dedicata al Front National, il partito guidato da Marine Le Pen, fondato dal padre e ora guidato dalla figlia Marine Le Pen. L'introduzione a questa inchiesta è di Timothy Garton Ash. Continua poi in pagina 17, il titolo è Le Pen all'Eliseo, l'ipotesi che spaventa la Francia. Poi con la Repubblica, come da ormai da agosto, da quando il direttore dell'Espresso è diventato Tommaso Cerno, con Repubblica trovate l'Espresso, che una volta usciva di venerdì, la copertina è dedicata alle elezioni. C'è un disegno, il titolo Asta sempre la vittoria, ma in realtà elezioni, quindi naturalmente è un richiamo anche alla recente scomparsa di Fidel Castro a Cuba. Per spiegare questa tutto quello che poi trovate all'interno, le varie ipotesi che fa l'Espresso, manovre e riti per rinviare il voto. La crisi si avvita nel solito copione istituzionale, mentre gli italiani hanno chiesto di poter scegliere dal referendum al prossimo governo, che non potrà essere l'ennesimo gioco di palazzo se la sinistra vuole ancora parlare alla società e ripartire. Il Messaggero, governo il giorno di Gentiloni, quindi anche qui stessa ipotesi. La fotonotizia invece è dedicata a quello che avete sentito anche nel GR, la consueta emergenza smog, consueta perché come sempre quando d'inverno aumenta l'uso delle caldaie, e più che delle macchine, perché sappiamo che sono le caldaie a essere in realtà responsabili della maggior parte dell'inquinamento delle città, e soprattutto quando non piove per molti giorni, smog alle stelle, mezza Italia a piedi, ed è scattato in molte città, Roma compresa, Milano compresa, il blocco, anche se con modalità differenti, per cercare appunto almeno di frenare la componente che è riconducibile alle auto. Poi ci sono stati messi anche dei limiti ai gradi che si possono tenere in casa e nei negozi. La Stampa, conto alla rovescia per Gentiloni, quindi anche qui stessa ipotesi di tutti gli altri giornali. La fotonotizia è dedicata però a un reportage di Alberto Simoni da Tokyo. La bomba di Kim Jong-un, il leader della Corea del Nord, fa paura a Tokyo, può colpirci. E poi altre due notizie che la Stampa sceglie di mettere in prima pagina. Una riguarda Fuoco a Mare, il documentario di Gianfranco Rosi, che ha vinto il European Film Award per la categoria documentario. Sappiamo che anche, tra l'altro, è anche candidato all'Oscar, nella cinquina dei candidati all'Oscar nella categoria dei documentari. Altra notizia in prima pagina: le lacrime di Patti Smith per Dylan. Ieri c'è stata la consegna ufficiale a Stoccolma dei premi Nobel, e Bob Dylan non è andato a ritirare quello per la letteratura, però Patti Smith ha cantato e si è anche commossa, ha anche dimenticato alcune delle parole della canzone, ha cantato proprio per celebrare questo premio a Bob Dylan. Ci fermiamo un attimo però per la pausa e sentiremo anche alcuni aggiornamenti sul meteo. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, buona domenica, e grazie a Lorenzo che giustamente ha corretto il mio lapsus. Ho detto che il segretario di Stato è l'equivalente del ministro della difesa, in realtà è l'equivalente di un ministro degli esteri, noi lo chiamiamo così in Europa. Vediamo l'unità è quella che dà per certa proprio l'incarico a Gentiloni, perché il titolo è questo: ecco il governo Gentiloni, finite le consultazioni, oggi l'incarico a Mattarella. La fotonotizia però è dedicata a quello che sta succedendo a Palmira. Ricorderete tutti la città siriana che era stata, ci avevano raccontato e documentato, che era stata, era l'ISIS ne aveva perso il controllo. Ora con tutte le forse i riflettori puntati su Aleppo, l'ISIS si riprende Palmira. Palmira, tra l'altro, sapete che è quella città con delle ricchezze archeologiche, in parte ormai purtroppo già distrutte, che già erano state appunto devastate dai seguaci del califfato. E ora, tra l'altro, erano 3 giorni che l'ISIS aveva lanciato questa offensiva su Palmira, ma come appunto ho detto all'inizio, forse erano le forze occidentali erano troppo concentrate, lo sono ancora, su Aleppo, che per carità è un'altra emergenza, però appunto nel frattempo l'ISIS si è ripreso Palmira. La verità: dite no a Renzi bis e a Renzi mascherato. Quindi Renzi bis sarebbe un reincarico a Matteo Renzi, che pare però molto improbabile, e l'incarico a Gentiloni viene definito dalla Verità, il quotidiano fondato da Maurizio Belpietro un paio di mesi fa, il Renzi mascherato. La fotonotizia è di Luca Lotti, che era il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e molto probabilmente lo sarà anche nel prossimo governo. Il Giacomo Amadori ce lo racconta poi a pagina 5, definendolo un ventriloquo verso il posto di vice premier. Il Giornale: non si vota subito, oggi forse il nuovo governo. E il commento è di Piero Stellino, un pokerista sconsiderato, pokerista naturalmente sarebbe Matteo Renzi. Il Fatto Quotidiano: il rieccolo. Renzi si fa le sue consultazioni, aggira il Colle e rivuole la Boschi. Questo fa parte di tutti i retroscena che ci sono stati più o meno raccontati ieri e forse ci saranno raccontati anche oggi, cioè che parallelamente alle consultazioni ufficiali, quelle gestite da Mattarella al Quirinale, Matteo Renzi, che sapete non è andato, non ha fatto parte della delegazione del PD che è andata al Quirinale, Matteo Renzi avrebbe appunto fatto le sue consultazioni, come dice il Foglio. Il Secolo XIX, ve lo segnalo perché il titolo è Mattarella fretta il giorno di Gentiloni, ma perché la fotonotizia è proprio dedicata al premio Nobel, il Nobel senza Dylan, con le lacrime di Patti Smith. Libero: di votare non se ne parla. L'editoriale di Vittorio Feltri, direttore di Libero: nessuno vorrebbe, ma il silurato Renzi è ancora decisivo. E la fotonotizia è dedicata invece a Maria Elena Boschi, ministro delle riforme istituzionali nel governo Renzi, caduto, e pare in questi retroscena appunto, pare, non c'è nulla di ufficiale, che Renzi avrebbe chiesto che nel prossimo governo Maria Elena Boschi resti. E quindi Fausto Carioti ci racconta poi a pagina 4 di sana e robusta Costituzione con la C maiuscola naturalmente, la Boschi prova a resistere. Il Manifesto ha una foto, non lo so, sì, che coglie Gentiloni in un momento un po' curioso, che è quello in cui, prima di andare in televisione, gli addetti al cosiddetto trucco e parrucco sistemano gli ospiti, e quindi c'è questa persona, non si capisce bene che trasmissione fosse, che comunque sistema con un pettine i capelli di Gentiloni, e il titolo è Secondo Matteo. A breve un esecutivo nella pienezza delle sue funzioni, come ha detto il capo dello Stato. E anche per il Manifesto: Renzi rifiuta il bis ma sceglie il successore Gentiloni. Avvenire, anche qui non dà per certo il governo per oggi, il titolo è in breve punto, forse breve, Mattarella governo subito, serve però la legge elettorale. La fotonotizia è dedicata però alla tragedia che è collegata alla guerra civile in Siria, perché ci sono naturalmente moltissime persone che cercano di scappare dalla Siria e si rifugiano per esempio in Libano. L'impegno di Fox e The Caritas per l'aiuto alle famiglie di profughi, il Libano che non si stanca di ospitare i siriani in fuga. Ad appello ad Aleppo e a Mosul, i due volti della guerra, ce li racconta Riccardo Redaelli a pagina 8. Ma veniamo alle pagine interne dei quotidiani e torniamo sul Sole 24 Ore, perché ieri forse io l'ho sentito nel telegiornale regionale, ma è sicuramente parte dei cambiamenti che ci sono in questo momento nel panorama delle infrastrutture italiane. Tava Brescia, ora si punta a est. Marco Morino ci racconta quello che appunto è stato inaugurata ieri, questa tratta. Ora ci vogliono soltanto 36 minuti per raggiungere Milano da Brescia, e il piano delle Ferrovie dello Stato prevede che nel corso del 2017 partano anche i lavori per la Brescia-Verona e per la Verona-Vicenza. E su questo tema dei collegamenti veloci dal Secolo XIX vi segnalo che anche da Genova ci sono buone notizie. Ora Genova sale sull'alta velocità, torna al treno diretto per Firenze, in poco più di 3 ore e mezza arriva a Roma. Segnalo anche, come segnalano molti giornali, che ci sono poi le proteste di tutti i comitati dei pendolari che chiedono anche un potenziamento delle tratte regionali. Il ministro Delrio ha risposto che comunque ci saranno agevolazioni per i pendolari che vogliono usare i treni ad alta velocità, che ovviamente sono molto più cari dei treni regionali, e che non ci si dimenticherà anche del trasporto appunto delle tratte regionali, che sono quelle più usate dai moltissimi pendolari che da fuori città raggiungono le grandi città per lavorare ogni giorno, e poi naturalmente ci sono anche gli studenti che invece raggiungono le grandi città per studiare. Dalla prima pagina di Norme e Tributi ci ricorda, purtroppo va fatto, che c'è in vista il saldo dell'IMU TASI, caccia le delibere, in vista della scadenza che è il 16 dicembre occorre verificare se gli enti locali hanno adottato atti validi, quindi tutti gli approfondimenti. La pagina di Sport e Business, che è arrivata ormai alla nona settimana, questa nuova iniziativa del Sole 24 Ore, ogni sabato, ogni domenica una pagina dedicata appunto ai numeri dello sport, e come è giusto che sia, si è appena aperta la stagione sciistica, questa settimana è dedicata allo sci. Circo Bianco in Italia, 13 tappe dal Sestriere a Plan de Corones. La Coppa del Mondo di sci alpino ha un fatturato di circa 200 milioni. Quindi da una parte il business appunto sportivo della Coppa del Mondo, però c'è anche un articolo sempre di Maria Luisa Coledani, che ha curato tutta la pagina. Per sciare si spende 1 miliardo, quindi questo grande business non solo dei professionisti ma naturalmente di tutti quelli che vanno a sciare per puro piacere diletto. L'approfondimento sul petrolio lo trovate a pagina 23. Da una parte c'è la cronaca proprio fatta da Sissi Bellomo, l'accordo sui tagli, i produttori non OPEC estrarranno 558.000 barili in meno ogni giorno, e l'analisi di Roberto Bongiorni è un risultato storico ma pieno di incognite, anche perché Roberto Bongiorni ci ricorda che quando si parla di riduzioni produttive è sempre meglio essere cauti. Nel 2008 la Russia si impegnò a tagliare le sue estrazioni, ma poi non lo fece. Dalle numerosissime, come vi dicevo, retroscene analisi sulla crisi di governo, vi segnalo sul Corriere della Sera un articolo di Nando Pagnoncelli, il sondaggista, che appunto parte da un sondaggio, e secondo questo sondaggio, se si votasse oggi, il Movimento 5 Stelle sarebbe il primo partito con 2 punti sopra il PD. Il referendum però sostanzialmente non ha spostato gli equilibri, perché restano quindi questi tre poli, 5 Stelle al 31,5%, il PD al 29,8% e il centrodestra, se si unisce, e sappiamo che non è così certo perché la posizione per esempio di Matteo Salvini in questo momento è molto diversa da quella di Forza Italia, si è unito al 28,6%. Poi vi segnalo questa notizia di cronaca che trovate anche su altri giornali. Il veterinario che un anno fa, il veterinario piemontese Luciano Ponzetto, che un anno fa aveva ucciso un leone in Tanzania, è morto ieri in un incidente mentre andava a caccia. È morto perché è caduto in un burrone, ma appunto a un anno è morto. E Elisa Sola ripercorre questo caso che ricorda un po' anche quello di un altro medico, questa volta un dentista, Walter Palmer, americano, che invece uccise il leone Cecil in Zimbabwe, che era, questo leone era un po' il simbolo del parco naturale di Zimbabwe, dello Zimbabwe, dove questo dentista americano andava a cacciare. A proposito in qualche modo di ambiente, di rispetto per l'ambiente, sempre sul Corriere, una ricerca che ci dice quanto poco verde c'è nelle città. 31 metri quadrati per abitante possono sembrare tanti, in realtà sono molto pochi, perché con così poco verde aumenta lo smog e le polvere sottili, e naturalmente il riferimento è anche a quello, come dicevamo prima, che oggi scattano molte misure in molte città, per esempio a Milano stop alle auto inquinanti e a Roma tutti a piedi. Divertente l'articolo che trovate su Repubblica, pagina 13, che è un articolo in realtà pubblicato dal New York Times, che Repubblica può pubblicare per un accordo che ha con il New York Times. L'autrice è Julie Hirschfield Davis, che ci racconta un po' come Donald Trump sceglie i suoi segretari, cioè i ministri. Quasi un'ora di anticamera, domande trabocchetto, così Donald sceglie la sua squadra. Secondo me una bellissima notizia, forse come spesso accade, le belle notizie vengono trattate meno delle cattive. È un accordo che a me ricorda per l'importanza storica la fine dell'apartheid in Sudafrica. Ieri alla Stoccolma è stato anche consegnato il premio Nobel per la pace a Juan Manuel Santos, il presidente della Colombia, che è l'autore il fautore e colui che ha tessuto meglio l'accordo di pace che ha posto fine a decenni di guerriglia e di guerra civile in Colombia. Ci lasciamo però un attimo per una pausa sul traffico. In primo piano. Ancora buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli, bentrovati per l'ultima parte della nostra rassegna stampa. Ancora qualche segnalazione dalle pagine interne, poi passiamo ai supplementi culturali. Dal Messaggero, come sempre, vi segnalo nelle pagine della cronaca di Roma, il Messaggero è l'unico che ci aggiorna sul difficilissimo compito che ha la giunta Raggi di di cercare di risolvere i problemi della capitale, e quando si leggono le pagine interne del Messaggero si capisce che per ora non ci sono grandi progressi. Per esempio, sulle partecipate, salta il piano di rientro, partecipate non si vende, stop alle prescrizioni del Salva Roma, il decreto che ha messo ulteriori soldi per ripianare il debito della capitale. In ballo ci sono i 110 milioni all'anno previsti da Palazzo Chigi come extra costi per la capitale. E poi sull'altra pagina l'annuncio di Virginia Raggi, poi vedremo se la giunta approverà. Cura dimagrante nelle aziende, stop assunzione di personale sempre nelle partecipate. È una spending review anche appunto voluta dalla giunta Raggi. Sono però ancora soltanto annunci. E poi vi segnalo, prima appunto di passare ai supplementi culturali, l'inchiesta domenicale della Stampa. Questa settimana è dedicata al Jobs Act, ma non tanto a quello di cui si è già molto discusso, cioè nel 2016 sappiamo, grazie al Jobs Act, sono aumentati i posti di lavoro circa 600.000, però soprattutto grazie ai voucher, che quindi è un aumento molto criticato che bisogna leggere con attenzione. Ma un altro effetto del Jobs Act, ci racconta Giacomo Galeazzi alle pagine 12 e 13 della Stampa, è che sono cresciuti i licenziamenti disciplinari, un aumento del 28% nei primi 8 mesi del 2016. Però anche qui bisogna vederli bene questi dati, perché da questa inchiesta emerge anche che c'è chi ha perso il posto di lavoro mentre era in malattia o per contestazioni senza prove. Ma veniamo alla domenica del Sole 24 Ore. E cominciamo come sempre dal breviario di Gianfranco Ravasi, che oggi si intitola Fiammifero ed è una citazione da un romanzo del 2011, La presa, di un autore olandese, Stefan Enter. La vita è un fiammifero che viene sfregato, ma la cui fiamma va usata al più presto per accendere qualcos'altro, perché se aspetti si spegne ed è troppo tardi. Ecco un modo per nobilitare un'altra locuzione comune del nostro linguaggio, restare col cerino acceso in mano, rappresentazione di un esito incauto prodotto da incapacità nel saper scaricare su altri una questione scottante. Stefan Enter, una delle voci più significative della letteratura olandese contemporanea, con la metafora del fiammifero acceso tenuto tra le mani, propone invece, nel suo raffinato romanzo psicologico La presa, un'efficace meditazione sul senso della vita. Essa non è un mero possesso personale, quasi fosse un oggetto da tutelare. È piuttosto simile a una fiammella che può accendere un cero più duraturo, è un lievito che può fecondare, un seme che apre un circolo vitale più ampio. In ultima analisi, è ancora una volta la legge dell'amore autentico che donandosi non si perde, ma vive, si accresce e si diffonde, illuminando e riscaldando il mondo. Poi c'è il memorandum del nostro direttore Roberto Napoletano, nostro di Radio 24 e del Sole 24 Ore, che racconta anche come dalla prima della Scala della settimana scorsa, con, sapete, la Madama Butterfly di Puccini e 14 minuti di applausi, sia stato comunque un segnale positivo. Il laboratorio civile della Scala, una notizia che si lega anche al fatto che il 13 dicembre si terranno a 5 anni dal manifesto per la cultura lanciato dal Sole nel 5 anni fa, appunto, gli stati generali della cultura. Un commento su questo è di Armando Massarenti, responsabile della Domenica del Sole 24 Ore, anche perché per una felice combinazione questa settimana si inaugura anche la Fondazione Feltrinelli, che è che poi trovate descritta a pagina 2 del Domenicale, che è questo grande spazio nuovo a Milano dedicato appunto alla cultura nel suo senso più ampio, con oltre a una libreria naturalmente, spazi per eventi di ogni genere legati appunto alla cultura. Poi vi segnalo la recensione di Gilberto Corbellini a un libro interessantissimo. Voi direte, vabbè, se ci interessa la chirurgia, sì certo, si chiama Trattato di chirurgia cardiaca e ci racconta l'evoluzione dei trapianti. Luigi Chiariello affronta in un trattato l'evoluzione. Oggi si vira su tecniche via via sempre meno invasive, come per molte altre branche della chirurgia. Come per sport e business, questa è la nona settimana della nuova iniziativa, che appunto ormai ha più di 2 mesi, del Sole 24 Ore della domenica, le 4 pagine dedicate ai più piccoli. C'è qualcuno che sa leggere, e oggi, visto che appunto c'è stata la prima della Scala, sono iniziate quasi tutte o inizieranno a brevi le stagioni liriche dei grandi teatri italiani. L'articolo principale di Quirino Principe, uno dei critici musicali del Sole 24 Ore, fammi sentire come fa. Per scoprire che sai cantare, scegli una musica che ti piace, anche una musichetta, intona la melodia, suonala, insegnala ai tuoi amici. È un gioco bellissimo, diventerai forte come 10 giganti e volerai su Plutone. La lettura del Corriere della Sera, il supplemento culturale della domenica del Corriere, come sempre la copertina è affidata a un artista, questa settimana è Giovanni Anceschi. E dall'interno vi segnalo un articolo di Giuseppe Remuzzi, che è un medico ma anche un eccellente divulgatore, che parla di come di quel sogno impossibile che chiamiamo immortalità. L'uomo non è fatto per vivere più di 110 o 115 anni, ci raccontano vari libri che appunto poi e molti studiosi che Giuseppe Remuzzi cerca di riassumere, così come l'uomo non correrà mai i 100 metri in 5 secondi. Sappiamo che già scendere sotto i 10 è stato considerato da molti un traguardo che non facilmente verrà superato, ma vedremo. E poi nella sezione dei libri per ragazzi non posso non segnalare questo libro che si chiama Cani e gatti sotto la lente della scienza, tra l'altro illustrato da un disegno che poi è anche contenuto nel libro, e che appunto cerca di rispondere, e credo che sia un libro adatto veramente a amanti di gatti e cani o curiosi di gatti e cani di ogni età. Il gatto non cade dal filo perché sa muovere la coda, il titolo, ma ci sono tante altre domande a cui si risponde, per esempio il perché della schizzinosità dei felini, o il fatto che i cani e i gatti si guardano nello specchio ma si vedono, e poi naturalmente la domanda: ma è vero che poi i cani tendono ad assomigliare ai loro padroni o viceversa? La Repubblica, sapete, ha appena rinnovato completamente la parte domenicale dedicata alla cultura, il supplemento che adesso è estraibile si chiama Robinson, la copertina è dedicata a uno scritto di Zadie Smith, la scrittrice inglese, Pensare un mondo migliore. La scrittrice parla dell'ottimismo e della disperazione, e il virgolettato scelto per introdurre questo lungo articolo, che poi trovate a pagina 16, sono cresciuta in anni pieni di possibilità, adesso tutto è cambiato, ma dobbiamo imparare dal passato. Poi un divertente articolo di Arianna Finos, lo trovate a pagina 35, su quelli che potremmo dire tutte le persone che lavorano ai costumi, sì, possiamo chiamarli costumisti, ma oggi ci sono anche molte intersezioni col mondo della moda, quindi tutte le persone che si occupano dei costumi nei film. Vestire i film, giacche sgargianti, gonne vintage e anche un completo da balena. Courtney Hoffman, che è la costumista del film Captain Fantastic, che è stato presentato al Festival di Roma e esce in questi giorni con protagonista Viggo Mortensen, dice di aver perso il sonno per trovare i calzini giusti appunto per Viggo Mortensen. Purtroppo non ho molto tempo per segnalarvi altre cose, però a proposito di moda, dal Corriere della Sera un bellissimo articolo di Matteo Persivale dedicato a Maria Grazia Chiuri, che da Valentino è passata alla direzione creativa di Dior, è la prima donna a dirigere questa maison francese. Gianfranco Ferré era stato il primo italiano, un'italiana a Parigi, la scalata agile al tetto del mondo. Perché questo articolo? Perché la notizia non è di ieri, è che invece ieri è la notizia che Maria Grazia Chiuri è stata scelta tra le donne del 2016. Un ringraziamento a Paolo Coleoni in regia, che mi fa segno di chiudere assolutamente. Ancora una buona domenica da Giulia Crivelli.